22:35 minuti primi. Oh. E dai, va. E c'era un microfono accatastato accanto a un altro, insomma, non si capiva. Vabbè, 22:36 minuti primi, dicevamo. Abbiamo attivato il microfono, quello di ordinanza, come si dice. Per gli addetti ai lavori, quello sul cursore numero. Che ecco perché, vedi, perché non va tanto bene. Dicevamo 22:37 minuti primi sulle frequenze di Onda Rossa 87.9 della banda romana e laziale. Ovviamente non vabbè, riprendiamo con il microfono funzionante. Dicevamo, gli 87.9 della mozione di frequenza della banda romana laziale Radio Onda Rossa. Non potevamo iniziare in maniera più così afflitta, ecco, in parte anche sconfitta, ci sentiamo insomma un pochino. Il 15 di ottobre eravamo tutte e tutti in piazza, 15 ottobre 2011, a San Giovanni e dintorni. E c'erano mille e più motivi per scendere in piazza quella giornata. Forse proprio l'errore fu che ognuno scese in piazza per il suo millesimo motivo. Tant'è che a 11 anni di distanza arriva la sentenza di Cassazione . Come si dice, sentenza inappellabile, che condanna, conferma a 6 compagni pene che vanno dai 5 anni e 4 mesi ai 6 anni e 6 mesi, quindi. Applicazione di quella legge terribile, inappropriata, repressiva, antistorica, potremmo dire, in un momento in cui tutta l'Europa scendeva in piazza in una serie di manifestazioni, ognuna con le sue peculiarità, e molte di queste manifestazioni, dal momento che ci trovavamo in uno stato esiziale, insomma, che poi è stato confermato, tutto sommato oggi viviamo un po' gli effetti di quella crisi che si manifestava in quegli anni. In molte parti d'Italia, quelle del mondo, scusate, non d'Italia. In molte parti del mondo quelle manifestazioni erano manifestazioni piuttosto decise, importanti, che arrivavano a degli scontri anche con le forze dell'ordine che si davano degli obiettivi, cercavano di occupare le piazze, insomma. Manifestazioni potenti. Assistemmo a così, a qualcosa di abbastanza impressionante, a le persone caricate in piazza impunemente e con gli idranti e facendo caroselli con gli automezzi. Anche in quel caso noi c'eravamo, insomma, lo possiamo confermare, per poco non ci scappò il morto, come si dice, per fortuna non fu così. E assistemmo anche a molte molti pischelli che e ragazzi e ragazze che partecipavano a quella manifestazione, un po' esasperati dalla situazione, appunto, che si viveva di incertezza totale riguardo al futuro di tutte e tutti, ma anche da questo continuo carosello, carichi eccetera, delle forze dell'ordine. A un certo punto reagirono a tutta quell'aggressività e, insomma, ci furono incidenti diffusi. Ecco, riguardo a questa cosa, sei compagni, dicevamo, compagni e compagne, sono entrati quest'oggi in carcere e noi non possiamo che dire che siamo accanto a loro. Va bene, andiamo avanti perché abbiamo preparato un po' di suoni anche per chi sta dentro quelle fottute mura. Ricordando sempre il radioabbonamento. Andate sul sito della radio www.wonders.info, ci troverete tutte le informazioni riguardanti non solo il radioabbonamento, ovviamente, che campeggia proprio in alto al centro della pagina, ma troverete anche i podcast, le registrazioni delle trasmissioni più importanti che la radio ha prodotto o autoprodotto. Le rassegne stampa, molte dei redazionali, insomma. Le corrispondenze e quant'altro. Poi vi invitiamo, se non l'avete ancora fatto, ad andare a cliccare sul banner del radioabbonamento e versare questi 30 euro per la radio. Ringraziamo comunque tutte e tutti coloro che ci hanno raggiunto nella 3 giorni di Onda Rossa. In quel dell'ex SNIA Viscosa ringraziamo altresì la SNIA per averci ospitato. Ci ringraziamo e ci facciamo gli auguri reciprocamente per la bella iniziativa, per la bella festa che abbiamo fatto alla radio per i suoi 45 anni. Così, da vecchietti della radio, lo facciamo sicuramente. L'augurio e ringraziamento a tutti i giovani della radio e le giovani che hanno contribuito con tanta energia e tanto entusiasmo. 0649 17 50. E ringraziamo pure i vecchietti, quelli della generazione anche precedente alla nostra, ancora se la spingono e ci danno una pista a tutti e tutte quante. Va bene, dai, 22 e 45 minuti primi, non possiamo che fa che mandare la prima traccia in scaletta per questo a 25 o'clock. 0649175050, che ve lo dica fa, fate vedere che non state solo davanti alla partita. O comunque, se proprio ve la dovete vedere, vedetevela, ma ascoltate la radio nel frattempo. Riproviamo col microfono questo qua. Dropkick Murphys da Boston, ovviamente. HBDMF, che sarà che Happy Birthday e poi Dear Motherfucker, non sappiamo esattamente che cos'è. Comunque una, è un invito a non menarsela troppo, è anche il giorno del proprio compleanno. Sì, vabbè, il tuo compleanno, però insomma dai, non la fa troppo lunga. Si chiama megalomania, non è una settimana, è un giorno. E mo è finito, mo che dici, mo non stai più al centro dell'attenzione. Insomma, questa è un po'. Il senso di HBDMF, Dropkick Murphys 2001. Scusate, 2021, Turn Up That Dial, Dropkick Murphys, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. A big deal of their birthday.

dicevi piano, prima di masticarmi il cuore e sputarmelo in mano. E se senti la mia voce, vorresti stare in questa stanza adesso, adesso. Ma tu vuoi vedermi perdere me stesso? Ma tu vuoi vedermi perdere me stesso? Ma tu vuoi vedermi perdere me stesso? Ma tu vuoi vedermi perdere me stesso? Allora, questa è Ketamine. Quando sono le 22:57 minuti primi, in onda sugli 87.9 della modulazione di frequenza a Roma e Lazio. Ve la mandiamo da capo perché volevamo comunque ricordarvi la traccia che abbiamo appena ascoltato, che era Pat. Vita Nuova, l'ultima traccia del disco, una perla messa proprio alla fine a inanellare 8 tracce. Che raccontano le storie di vita della periferia. O come ci diceva Ciccio della Morte, insomma, le occupazioni sono importanti. Chi ci sta dentro, quella umanità e quella umanità delle periferie che occupa o non occupa non è importante, ma comunque sbarca il lunario. E queste invece sono le ballate adulte di Mark Lanegan nel 2020, ultima uscita in tutti i sensi per songwriter e voce degli Screaming Trees e di tanti altri progetti, quindi da capo Ketamine a Radio Onda Rossa 25 O'Clock. Lord, give me some ketamine so I can feel alright. To plant my flag on distant shores and take me through the night. Cause if I had a razor, I would cut you everywhere. Then I'd walk the whole of earth with a thousand miles. Stare spirit over you. Yeah, Lord, give me some ketamine so I can feel alright, to hide my true dark nature and to keep it out of sight. Look at this spot and stare at the wall. Try to remember I'm somebody's father. Don't commute across Covington Bridge. Get lost in my head. Just looking at it. Now I'm looking at you through the hole in my sheet. And I still need this over time. Cause I'm over myself, over the hill, I'm over the Rhine. Millionth time, for the millionth time, I'm overspent, overworked, overlooked, I'm over the Rhine, for the millionth time. Cut through all pokers, it's safe now. The streets in my nightgown. The ghost of Cincinnati slinks past. I smell your coffee, can you taste that? My liver, no cup, won't even feel real. I'm rushing there, all the way there. Cause I'm over myself, over the hill, I'm over the Rhine. For the millionth time, for the millionth time. I'm over the Rhine for the millionth time. Stalk the spring grow, rub my old clothes, pardon B-rolls and wonder why the evil grows. Now I'm in the big time, not a suicide. Stalk the streets and haunt you from the north side. Face the hedgerow, dodge the low blows. Play the fountain square and wonder where my cousins go. Haunt the north side, stop the traffic lights. Cycle the price here and stare up at the Pepsi sign. I'm overextended, I'm over it all. .05 minuti prima di questa era The Big Red Machine. Affermazione fondata dai Aaron Dessner. Dei The National e Justin Vernon dei Bon Ivers. che si avvale della partecipazione di molte di molti ospiti nel disco, a partire da Ines Mitchell, cantautrice statunitense nota per lo più per aver scritto Why We Build the Wall, e poi Taylor Swift, Naim, Sharon Van Etten, Lisa Heinigan, La Force. Ben Howards, insomma, tante partecipazioni. Lavoro pure questo, credo, recentissimo, suppongo del 2022, ma no, 2021. Che prende il nome di How Long Do You Think It's Gonna Last? E continuando quindi su queste sonorità, anzi andando indietro nel tempo, andando a scartabellare come hanno fatto Billy Bragg, Joe Harry, in un lavoro ormai uscito da qualche anno, Shine a Light, che ha la peculiarità di essere un album tutto quanto registrato nelle stazioni dei treni statunitensi, da Chicago fino alla West Coast, in un lungo viaggio che li ha visti montare comunque dei palchi improvvisati, o veramente improvvisati, nel senso che si trattava proprio di unplugged acustici o poco più, appena amplificati negli androni, negli atri delle stazioni. Per la precisione, noi andiamo ad ascoltare quello che è stato registrato nella stazione di Chicago, in un androne enorme, quindi la cui acustica era proprio ricercata dai due, per riprodurre e per dare l'atmosfera giusta a questi traditional. Tutte ballate e canti storici del lavoro, del viaggio, insomma. Noi ci andiamo ad ascoltare dei LN, Don't Stop Here Anymore. Radio Onda Rossa, 25 o'clock, eccoli qua. Ce l'abbiamo fatta finalmente. Dai, da capo. When I was a curly-headed baby, my daddy sat me down upon his knee. Saying, son, you go to school and learn your lessons. Don't become no dusty miner boy like me. Was born and raised in the mouth of the Hazard Hollow. With the cold cars rolling and rumbling past my door. Now they stand in a rusty row of empties. Garcia man, don't stop here anymore. to think my daddy was a black man with scripts enough to buy the company store. Now he goes to town with empty pockets and his face is white as February snow. Was born and raised in the mouth of the Hazard Holler. Cold cars roaring and rumbling past my door. Now they stand in a rusty row of empties, Garcielle, and then don't stop here anymore. Never thought I'd learn to love that cold dust. Never thought I'd yearn to hear those tipples roar. But how I wish the grass would turn to money and those greenbacks fill my pockets up once more. Was born and raised in the mouth of the Hazard Harbor. Cars roaring and rumbling past my door. Now they stand in a rusty row of empties, Garcielle, and then don't stop here anymore. Last night I dreamed I went down to the office to get my paycheck like I'd done before. Those kudzu vines were covering up the doorway. There was grease and weeds going right up through the floor. I was born and raised in the mouth of the Hazard Harbor. Cold cars roaring and rumbling past my door. Now they stand in a rusty row of empties, Garcielle, and then don't stop here anymore. Tre 14 minuti prima occorre dare alcune note e magari anche leggere il testo di questa. Wake up early in the morning when the ding dong ring. Dale Aylen, Don't Stop Here Any See the same damn thing anymore, che appunto dice che ormai la Aylen, che erano questi treni. Aylen era un'industria carbonifera, insomma mineraria estrattiva del carbone. E il testo e le musiche di questa ballata sono stati incisi nel 1966 da Jan Ritchie, che era il figlio, probabilmente, se non andiamo errati, proprio di un minatore. E nel 1966, qualche anno prima, la Aylen chiude la miniera e quindi non ci sono più i treni che portano la gente e portano il carbone, portano quella umanità varia che gira intorno a queste grandi opifici, a queste grandi industrie estrattive. E così recita: quando ero un bambino dai capelli ricci, mio padre mi ha fatto sedere sulle sue ginocchia, disse: figlio, vai a scuola e prendi le tue lettere. Non essere un polveroso minatore di carbone, ragazzo, come me. Sono nato alla foce del vuoto, i vagoni del carbone. Rotolarono e rombarono davanti alla mia porta, ma ora stanno in una fila arrugginita, tutti vuoti, perché la LN non si ferma più qui. Credevo che mio padre fosse un uomo di colore. Con i denari sufficienti per le carte sufficienti per acquistare il negozio aziendale, ma ora va in città con le tasche vuote. E il suo viso è bianco come la neve di febbraio. Sono andato cresciuto alla foce del vuoto, i vagoni del carbone rotolavano e rombavano davanti alla mia porta, ma ora stanno in una fila arrugginita tutti vuoti, perché la LN non si ferma più qui. Non avrei mai pensato che avrei imparato ad amare la polvere del carbone, non avrei mai pensato di pregare per sentire quel fischio. Oddio, vorrei che l'erba si trasformasse in denaro e quei dorsi verdi avrebbero riempito le tasche ancora una volta. Sono andato cresciuto alle foci del vuoto, i vagoni del carbone rotolavano e rombavano davanti alla mia porta, ma ora stanno in fila arrugginita tutti vuoti. Railroad Bill, Railroad Bill. E il perché la LN non si ferma più qui? La scorsa notte ho sognato di che scendevo in un ufficio per ottenere la mia paga come avevo fatto prima, ma quei vecchi vitigni di gozzo stavano coprendo la porta, c'erano foglie d'erba che crescevano fino al pavimento. Sono andato a cresciuto alla foce del vuoto, i vagoni del carbone rotolavano e rombavano davanti alla mia porta, ma ora stanno in una fila arrugginita tutti vuoti, perché la Helen non si ferma più qui. Took my wife. If I'd have spoken, he'd have taken my life. I wanna ride Railroad Bill. Wanna ride Railroad Bill. Noi siamo fatti e plasmati, insomma, di quello che è il meccanismo della produzione. Il nostro essere schiavi del lavoro ci plasma e diventiamo parte con esso stesso, finiamo per amarlo in qualche maniera, in qualche misura, e odiarlo al tempo stesso. Ma questo continua a essere il motore principale della nostra vita, nostro malgrado. Ci regala quella sporca dignità che ci regalano quei quattro spicci che ci vengono forniti dal nostro sudore. Dalla nostra fatica, dalla nostra noia, dal nostro saper fare quel piccolo compito che ci viene chiesto e da saperlo fare anche bene, questa la dignità che ci caratterizza e che ci dà in qualche maniera anche la forza. collect your crown. It's hard tail, hard tail. You gotta get open, it's hard tail. Get me sure, get me sure. She's gonna be your pretty little girl. Your pretty little girl. Shining shoes, red tails and ties. Trim that stash, don't be slow. You're gonna need a way you got to go. Hit that trail, ride that roam, and buck that limb and get it back home. Buckle up, boys, don't think twice. I love that alone with all your mind. It's hard tail, hard tail. You gotta get home and it's hard tail. Can't be sure, can't be sure. But you're gonna be your pretty little girl. Minuti primi mentre strombazzano. I romani per i successi calcistici e questo ci dà così la cifra di questa strana popolarità, benché il calcio, insomma, non sia più il calcio di un tempo. Però insomma, territorialmente ha passione, quindi registriamo anche questo tipo di umanità che comunque ci rallegra. I love the way you do. I love the way you do. Mentre queste sono le note e la voce di Robert Johnson, forse l'antesignano, il capostipite del club dei 27, morì a 27 anni, era del 1911 lui, lato del Delta, e questo è il Delta Blues. La sua vita è un vero film, la sua breve vita è un film, di cui però ci rimangono poche tracce in tutti i sensi. E la sua vita si mischia alla leggenda, come in tutti coloro che fanno parte di questo fantomatico club dei 27. Si sposa giovanissimo con la moglie, sedicenne addirittura, rimane incinta e ha una gravidanza che si conclude tragicamente, e questo dà la cifra di quanto fosse povera e precaria la vita in quegli anni. Morì di parto e morì anche il bimbo. La bimba non sappiamo che portava, come si dice, in grembo. È Robert Johnson, ventenne, ebbe il primo duro colpo della sua esistenza, e qui poi la storia si confonde con la leggenda, perché pare che in questo suo vagare, vagabondare per il mondo, sia stato visto con il demonio in persona, o comunque forse con un altro bluesman, tant'è che lui sapeva suonare malissimo la chitarra e non sapeva cantare. Nel giro di un anno tornò, essendo, o di poco tempo, forse anche meno di un anno, tornò a calcare così i club e dove si suonava blues, e lo faceva in una maniera tanto magistrale da pensare appunto che avesse realmente fatto un patto col diavolo. E le sue mani scorrevano veloci sulle tastiere della chitarra, tanto veloci da sembrare impossibile. Brian Jones fece sentire a Keith Richards queste poche tracce che ci ha lasciato, 41 in tutto, 29 ballate blues. Alcune delle quali registrate doppie, che fa appunto 41 in tutto. Pochissime le foto anche di Robert Johnson reperibili. Dicevamo, la gag di Keith Richards e Brian Jones, che fece ascoltare a Keith Richards Robert Johnson, e questi gli chiede: ma chi è l'altro che suona con lui? E non si era accorto che faceva tutto da solo. Si dice che da lui sia nato il blues moderno e anche il rock and roll. Noi abbiamo ascoltato per intero Walking Blues, quindi Robert Johnson, che poi morì per la sua vita abbastanza poi così dissoluta. Pare che si dedicasse insomma a andare un po' con le donne di tutti e anche con la donna la moglie del proprietario del club in cui suonava. Questi gli passò una mezza bottiglia di whisky aperta, gli fu tolta dalle mani dicendo non ti fidare, poi gliene passarono un'altra, lui si attaccò alla bottiglia e poche ore dopo, preso dagli spasmi dopo aver perso diciamo la padronanza di sé per tornare a casa e negli spalmi finì la sua vita a 27 anni, mentre di fuori si strombazza e questo ci piace che vada in onda. Continuiamo su questa riga, questo è l'ultimo lavoro dei Black Keys, devo dire che hanno fatto molti dischi molto belli, tutti. Dan Auerbach e Patrick Carney. In questo caso del 2021, accompagnati al basso elettrico. Al basso elettrico da Eric Dayton e alla seconda chitarra elettrica da Kenny Brown. E fanno dell'ottimo, dello splendido blues, da cui andiamo ad ascoltare le prime due tracce del disco, che ci ascolteremo tutto, ve lo diciamo a tappe nelle varie puntate. Dicevamo, le prime due tracce, Crawling e King Snake. Strisciando come il re dei serpenti. E poi Louise. Black Keys, Radio Onda Rossa, 25 o'clock. Ready? Yeah. Crawling kings they do. Crawl up on your door. Crawl up. Invece Louise, perché parte a bestia questo Black Keys. Delta Cream 2021. The street. the sun decided not to shine. There's a man who lives up the block, he doesn't even own a clock. Sometimes he stays awake for days, he's doing it his own way. That's just how he used to pray. I'm Sullivan Balloon. It's a recipe for blue, like it's 1862. Maybe I'm just a castaway, or a poor boy led astray. There's no one left here to betray. The only child of the earth, nobody left here to give birth. It's hard to tell now what that's worth. Minuti primi, Radio Onda Rossa. E questi sono The Counters. Che dovrebbe girare più o meno come i Ragionieri. Però anche forse probabilmente per estensione come i cantastorie, un po' diverso da songwriter. Ovviamente avrete riconosciuto la voce di Jack White e le sue chitarre insieme a Brendan Benson, sempre le chitarre alla voce, Jack Lawrence al basso, al banjo e ai cori. invece la sezione ritmica è per Patrick Keller alle batterie e le percussioni. Radio Onda Rossa, 23:50 minuti primi, 25 o'clock. Ci siamo fatti questa scorpacciata di ballads, folk, blues, rock sudista. E adesso rimescoliamo le acque, ma non troppo, perché ci vengono incontro l'ultimo doppio disco dei Melvins con scritto sopra, e cercavamo sempre, diciamo, quanto sono le tracce? Ci sta scritto sopra il disco, 36 song su 2 CD. La peculiarità è che sono tutti incisi in acustico. Now that you're gone. Now that you're gone. Night Goat è la traccia che abbiamo selezionato, è la 12ª del secondo CD. Non ci stanchiamo di ascoltare queste 36 tracce un po' per volta. Quindi a 25 o'clock a Radio Onda Rossa, ricordandovi lo 0649 1750, ricordandovi Radio Abbonamento, la campagna 30 per 1000, ricordandovi il concerto dei Pankow il 3 giugno al Forte. Eh sì, Elettro non se lo può spingere stasera, si è perso probabilmente nel suo romanismo. Now that you're gone. Now that you're. Now that you're gone. Night Goat, Melvins. Due minuti dopo la mezzanotte, 2 minuti e 32 secondi per l'esattezza, dopo la mezzanotte, questi The Fuzz erano selvaggi, quasi fosse un Woodstock. Riproposto nel 2020, questo lavoro si chiama Terzo, perché è il terzo disco per The Fuzz. E come recita la controcopertina interna al disco, Fuzz is T.I. Segall, drums e vocals, Charles Motard alle chitarre, Chad Ubovich al basso. Ma il folletto T.I. Segall non si ferma qui, perché già produce nel 2021, se non erro, due dischi solisti. Siccome non riusciamo a stargli appresso, ovviamente, e comunque le produzioni sono tutte di alto livello, tanto è il l'estro produttivo, creativo in cui si trova T.I. Segall. Questo che proponiamo è Firestart, sesta traccia. Dopo questo Nothing People dei Fuzz, The Arms, T.I. Segall, The First Thirst, 25 O'Clock, Radio Onda Rossa. We'll be right back. Da questo power flower allucinato, quindi andiamo verso suoni, anzi verso una muraglia di suoni anche più oscuri. Attraversiamo l'Atlantico, ci planiamo verso le isole britanniche. Ultimo lavoro per gli Idols. E ancora uno strisciare, Clowers. Un disco che probabilmente prende le mosse proprio dall'incidente motociclistico. Dicevamo, dall'incidente automobilistico occorso a Jatalbot, tutto il disco è un insieme di rimandi, le foto, la copertina, le immagini, il titolo delle tracce, insomma, fa ripercorrere a questa brutta storia che è occorsa a Jatalbot, che probabilmente lo ha ispirato, avendo visto la morte in faccia, come si suol dire. Guarda caso, andiamo ad ascoltare la quarta traccia, che si chiama Car Trash. sit down. Just shut up. I'll talk. Now you just sit down. I'll talk. Can I come back next time dressed in shite and take my place on the landscape's eyes? It's the rest who push the policy dream of fixing life with policy cream. Voice your thoughts near big black gates on dead old roads near bricks and grey to the sound of nothing as it breaks the spell. There's no witchcraft here, it's just fucking hell. We're in the makings of another role where we all get the chance to climb on again. It's just the makings of another role that will turn on us all eventually. Yeah, I got a roadworks post even though I'm free. I mean, I can't really moan because you'll have a go at me. So stupid, ain't we? We're like pumped up meat, wet and fried and thick to the slice. I got no flies on me, I'm like shit that's white, the kind that you tell your kids to pick up if they're light. I got two brown bins, should I only have one? But what the council don't know won't hurt them. We're in the makings of another role where we all get the chance to climb on again. It's just the makings of another role that will turn on us all eventually. We're in the makings of another role where we all get the chance to climb on again. It's just the makings of another role that will turn on us all eventually. The top and drag us down, down, down. It's gonna turn on us all and bring us round, round, round. Take us back to the top and drag us down, down, down. It's gonna turn on us all and bring us round, round, round. Take us back to the top and drag us down, down, down. Minuti dopo la mezzanotte suonano i clacson, ma non sono quelli del tifo calcistico, ma prodotti da Slay for Mods, la formazione di Nottingham, che ha spaccato la scena musicale, ha spaccato nel senso proprio sono entrati a gamba tesa. Con le loro basi minimali e lo spoken word. You know the fakes will always buy. Whenever you go through the line. Fishing, budgings and perch. Jason Williamson e Simon Performert. E poi nel 2012 Andrew Firm, questo è un lavoro del il lavoro del 2018. The little myths like Eaton Alive. Da qui abbiamo ascoltato Policy Cream. 25 o'clock Onda Rossa. Ormai 26 di maggio. Ma li abbiamo fatti gli auguri alla radio in diretta, boh? Approfittiamo, auguri Onda Rossa. Un po' in ritardo, qualche ora dopo. E quindi abbiamo rotto, diciamo, gli indugi e ci spostiamo quindi verso queste sonorità.

L'attività del comitato ha scatenato una bagarre mediatica che ha spinto gli organizzatori ad annullare il secondo tour mondiale della band, nonostante il caos scatenato dalle Dark Quentes, gruppi scalmanate e facinorose capitanate da Uma Thurman. L'attrice statunitense ha dichiarato sul Washington Post, al grido di Pussy Riot, musica sessualmente eccitante, inoltre il cantante ha un certo fascino. Questa è solo una parte della storia della morte, il resto lo trovate su www.seguilamorte.it. Io, ragionier Total, non sono diverso da voi, né voi siete diversi da me. Siamo uguali nei bisogni, diseguali nel loro soddisfacimento. Io so che non potrò mai avere nulla più di quanto oggi ho, fino alla morte. Ma nessuno di voi potrà avere nulla più di quanto ha. Certamente molti di voi avranno più di me, come tanti hanno meno. E nella lotta legale o illegale, per ottenere ciò che non abbiamo, molti si ammalano di mali vergognosi, si riempiono il corpo di piaghe, dentro e fuori. Tanti altri cadono, muoiono, vengono esclusi, distrutti, trasformati, diventano bestie, pietre, alberi morti, vermi. Fuoco che brucia più delle peggiori offese, su sbirre sbarre a difesa dei padroni suo paese. Sogno una rivoluzione totale, acciaio, cyberpunk, civil war globale. Voglio che questo mondo ci sia la libertà completa, non mi basta la democrazia. Non sfruttamento, basta faticare, plani rovani e cyber save totale. Onora mi sfruttato, a chi è stato ammazzato nel ventre dello Stato e non è stato ancora vendicato. Basta mediazioni, voglio lo scompiglio, scotto frontale con un botto di scintille. Nel fuoco e la rivolta c'è la fiamma della vita, sotto al suo intermed, questo contrabbasso mita. Lotta di classe, pan, paese delle meraviglie, nel sogno di Alice qui brilla dalla palme. You are companions, friends and comrades. Our resistance needs a long-term perspective. That includes ourselves becoming militant personalities. If we want to be victorious, we have to admit that our fight today is a fight for all or nothing. It is the time of bravery and of decision, the time of action. Fuoco, come vabbè su tutte le gabbie, in fiamme il tribunale che si affanna ad arrestare la rabbia. Sogno una rivoluzione totale, acciaio, cyberpunk, civil war globale. Vodka per noi senza soldi né stile, Rachmanino per chi ha seti molotov ostili. E se dovessimo morire per le vostre bombe, risorgeremo zombie e pisceremo sulle vostre tombe. Ora mi sfruttato, a chi è stato torturato nel ventre dello Stato e non è stato ancora vendicato. A chi è che ve l'ha detto che non c'è? Sta nel mitra lucidato nella fine dello Stato, sta nel fondo dei tuoi occhi, sulla punta delle labbra, nella gioia, nella rabbia, nel distruggere la gabbia. La solidarietà è oro, la vendetta è un'arma, onora e lì cambia qui brigata la palme. Ammazza che palle sta apocalisse, io che m'aspettavo la guerra dei mondi, almeno fucili a pompa sopra i pick up a caccia di sbirri zombie, invece al posto di sto ticket un sottofondo in attesa di morire gonfi. Ammazza che palle sta fine del mondo, con l'ottava dose manco mi trasformo. Faccio come Jagger se mi chiamo un talk show, mi faccio adorare e poi vi fotto i soldi su un po' come Osho. Non basta una sciuassa in classe, il prof qua ti chiama frocio. Ammazza che palle sta apocalisse, nemmeno Godzilla rilascia interviste, dice che è solo questione di business. Ha visto un cane a sei zampe sputare fuoco su bambini indigene. Si vorrei tanto che esista un inferno per vedervi friggere. Se per davvero c'è un anticristo, sicuro è seduto la bici. Vengo dalla febbre dell'odio, le guerre del petrolio non commuovono più. Domani sarà un mondo senza di noi, ma finché lotto mi innamoro, ballerò col fuoco e canterò storie. suonato. Di non sapere che sei Giuda, col gomito al bancone, 5 shot, ma dici cuda. La verità modella se la si dipinge nuda. La penna corre sopra il foglio e guarda come suda. Vedi veri tra 10 anni, le apriresti quelle porte. Magazzini abbandonati alla ricerca delle scorte. Un paese a canzonette mentre fuori c'è la morte. Una cascata di paillette, muri di guerra da est. Vedi veri tra 10 anni a sfondare quelle porte. Magazzini abbandonati, saccheggiamo quelle scorte. Un paese a canzonette mentre fuori c'è la morte. Io lo metterò alle strette, brindo alla cattiva sorte. Vengo dalla febbre dell'odio, le guerre del petrolio non commuovono più. Domani sarà un mondo senza di noi, ma finché lotto mi innamoro, ballerò col fuoco. Minuti, 32 minuti dopo la mezzanotte, 25 o'clock a Radio Onda Rossa, e ci siamo ascoltati Pavel dal lavoro del 2022, Swarovski, Brigata, Laura Palmer. E poi, per non abbassare i toni, Serpenseno, zona 6, Vittor, Pigna, municipio 5. Di Stop Erotico Stop. Ed ora sotto la nostra voce Torpigna Ice T. E quale migliore occasione per ringraziare le band che hanno suonato per la 3 giorni di Radio Onda Rossa. I costumi, facce da condanne per motivi futili. Guarda qui per la e la città si tiene insieme. E quale migliore soddisfazione per le band che hanno suonato sentire che voi che parlate di strade non vi ho visto. Ce li spingiamo perché ci sono piaciuti e piaciute. Quando mi vidi busto coi piedi per entrare, ci fanno schifo le guardie e l'agenzia delle. E quindi Fulcro, Kento, Serpenseno, Scasso e Orasi. Okay. 0649175 Torpigna Steve Serpinseno. C'è chi la prologa in zona Mustafa, ti elenca condizioni e termini. Mica ci gentrifichi con i localetti trendy, aperitivi con gli zingari in t-shirt difendi. Si fendi la nebbia con quegli occhi fra, mica ti offendi. Se ti dico di non spenderci 4 stipendi, smella di curcuma e curry nei chiostri, tutti quei problemi. E nel frattempo sul lettore di Brumotti, al massimo un paio dei nostri. Di sinistra è pronta, Orasi. Ti piace sta vita, risponda non possi. Sbagli una via, ti si fanno per ciò che indossi. Se beccani nazi li mangiano, sputano gli ossi. Nella fattispecie con Renegade, insieme al rapper tedesco Renegade. E questa è Snake. Guardie e l'agenzia delle entrate. Amen. Okay. Okay. Io ok. I hear the snakes hissing in the distance. They're clear, bait, distinct little whispers. Weird ways and slithering existence. But here persist on the discipline you're different. I hear the snakes hissing in the distance. They're clear, bait, distinct little whispers. Weird ways and slithering existence. But here persist on the discipline you're different. You know them mold snakes aren't venomous. And tripartamates on a regular. Try at heart where the scars are evident. And crack when bombarded with evidence. Arguments with half-assed relevance. Can't keep your guard up. Not intelligent or smart enough to come with anything. So don't start, I'm done with the pettiness. Oh, did it quick with eloquence. Effortless how I develop a sentence. Said it with sentiment, not for the hell of it. Never forget I said it all for your benefit. Nevertheless I'm getting bored of your negative talk. And expression by thoughts on enemies. Form reptilians sworn to befriend me. Cause they're sure I'm more than they'll ever be. I hear the snakes hissing in the distance. They're clear, bait, distinct little whispers. Weird ways and slithering existence. But here persist on the discipline you're different. I hear the snakes hissing in the distance. They're clear, bait, distinct little whispers. Weird ways and slithering existence. But here persist on the discipline you're different. Snakes, they slithering, sliding, hiding. Forgotten the times, I'm still beside them. Thinking my vision is dying, like I won't find them. I could get deep, but I don't wanna dive in. The lurking in shadows are thriving. I can make these shadows of lightning. Not one bad bone, but you're hyping. It comes from the soul when I'm writing. You know I'm not in it for the dough, bro. So fuck the gimmicks, put them in a chokehold. With a dope flow, my heart so cold for arseholes. Thinking of star mold. I know these words, don't wanna be heard, but losers. The truth hurts, you can make it move first. I'm on these big maneuvers, I'm ruthless. Taking a hit, concrete my music. Thinking my mind's addicted to this. It's funny if it takes 2 sips for pricks to think they're too sick. So how many times can I manage to find a man that's crying before we lose it? Don't come for a war, you get forgotten like Houdin. Aiming better than Cupid, nothing in life is lucid. So fuck what you know, listen up bro, just don't be stupid. And don't try and preach if you can't teach yourself. For enemies breed deceit, what kids can't eat and need a help. So how can we prevail if most of morals are weak and frail? I hear the snakes hissing in the distance. They're clear, bait, distinct little whispers. Weird ways and slithering existence. But here persist on the discipline you're different. I hear the snakes hissing in the distance. They're clear, bait, distinct little whispers. Weird ways and slithering existence. But here persist on the discipline you're different. You can stay snakey slithering, but you're paving the way to a dangerous predicament. With the games you play, you're taking the visibility. Are you big enough to come and face the discipline? Can't escape it, fate or petition it. I've tried to save you, but patience limited. What can I say if you ain't listening? I hate your behaviour, mate, you're ignorant. Not gonna waste my greatness on little men. If their brainwaves are so limited, I'ma save my statements for bigger things. It's my escape, my gracious instrument. Hit the page up, get straight articulate. Step away from the haters and insolence. I keep the rage cage, but stay vigilant. Cause get brave and I'ma get militant. Hey. 56 minuti dopo la mezzanotte e diciamo abbiamo fatto scorrere i libertà, i suoni sotto o privi della nostra voce. E quindi ve li diciamo dopo Horacy and Renegade Snakes Madlib Ribbit Chance Calibro 35 Stars and Stripes Kerps and Bips. Poi Calambember Ensemble, you won't get no Carfew e infine Reflection dei Chemical Brother ancora sotto la nostra voce. The money is flowing. E quando mai mancano 3-2 minuti all'una andiamo a dichiarare chiusa la programmazione in diretta di Radio Onda Rossa per questa notte del mercoledì barra giovedì. Nonostante tutto e malgrado tutto, in onda if you don't have no money, you won't get no money. Vi andiamo ad elencare quello che sarà il palinsesto di Radio Onda Rossa nelle prossime ore. Perché vi lasciamo in compagnia della compagna automatica Sonata che vi terrà compagnia con le sue selezioni e le sue repliche fino alle 8 di domattina, quando ci sarà la lettura delle prime pagine dei giornali, rassegna stampa cittadina, i redazionali della mattina del giovedì dalle 10 in avanti e poi piccola pausa alle 14, si riprende con tutta scena cinema fino alle 15, poi alle 16 Attica Blues, Altre Back Music, La Schiena del Sole alle 17, probabilmente l'avremo di nuovo in voce qua. Martis insieme a Mariano, quindi per La Schiena del Sole dalle 17 alle 20:15, Tabula Rasa, la trasmissione sui libri di Aranda Rossa, alle 22 Apostasia. Questa rimandamola a capo, eh. Il nostro saluto più importante va a tutte e tutti coloro costretti a condizioni di limitata libertà personale. Un abbraccio forte, forte, forte ai compagni e le compagne che sono entrate proprio quest'oggi nelle carceri, due o tre, non abbiamo ben capito, qui a Prova di Bibbia. Compagni e compagne che sono stati condannati in formula definitiva dalla Cassazione per quanto riguarda i fatti del 15 ottobre 2021, c'eravamo tutti e tutte in quella piazza. E quindi rinnoviamo il saluto a loro e a tutto l'altro popolo, l'altra parte del popolo detenuto. Perché in fondo si è detenuti più o meno sempre per la stessa ragione, al di là delle contingenze, e soprattutto quando si è detenuti e detenute. Il desiderio è unico, comune a tutti e a tutte, e cioè quello di evadere, uscire, andar via da quel posto orribile, disumano. Vediamo che succede la prossima puntata di mercoledì prossimo. Ci saremo, credo di poterlo dire con una con certezza, salvo così complicazioni dell'ultimo momento. Noi ci prepariamo con Under a Communist Moon, perché ce ne andiamo sotto la luna comunista, The International Noise Conspiracy. Bella a tutti e a tutte. Dai. dreams, I'll share our dreams, I'll share our dreams under a communist moon.